personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Se io chiedessi a ciascuno di voi qual è la storia d'amore più intensa, più travolgente che abbiate mai sentito raccontare, se io vi chiedessi qual è la vicenda che in qualche modo nell'immaginario collettivo simboleggia l'amore totale, l'amore appassionato, diciamo anche per la tristezza dell'epilogo, che cosa mi rispondereste? Io sono convinto che voi mi rispondereste come una sola voce la vicenda della giovane e bellissima fanciulla che è affacciata a un balcone di Verona, che indirizza parole struggenti, parole d'amore al suo giovane innamorato che è nel giardino sottostante. Sto parlando di lei, da quando l'umanità è venuta a conoscenza della vicenda che stiamo per raccontarvi, una vicenda che si svolge verso la fine del Cinquecento. I protagonisti sono diventati proprio l'archetipo, il simbolo degli innamorati, gli innamorati che con la loro passione celebrano il mito dell'amore perfetto, ostacolato per motivi che poi vi racconteremo, fino al tragico epilogo. Insomma, avete capito, oggi la nostra protagonista è lei, Giulietta, unica erede della ricca e altolocata famiglia veronese dei Capuleti, che si innamora perdutamente di Romeo, unico figlio dei Montecchi, la famiglia rivale, nemica dei Capuleti da generazioni. Un amore ovviamente contrastato, impossibile, destinato a trovarsi di fronte a mille ostacoli insormontabili. Sudditi ribelli, nemici della pace, che profanate le spade col rosso del sangue cittadino. Ah, non mi ascoltate! Dico a voi, belve, non uomini, che volete spegnere il fuoco della collera impetuosa nei rossi ruscelli che scorrono dalle vostre vene. Pena la tortura, gettate le spade dalle mani piene di sangue e udite la condanna del vostro principe. Troppe volte son nate risse per colpa vostra, vecchio Capuleti. E voi, Montecchi, turbate la quiete delle nostre strade. Se ancora una volta oserete disturbare la nostra città, pagherete con la vita la vostra colpa. Questo era il principe della Scala, sovrano di Verona, che era stanco delle continue risse, dei duelli che stavano insanguinando le strade della sua città e che avevano sempre origine da questa antica faida che contrapponeva le due famiglie, Capuleti e Montecchi, e lui li avvisa: attenzione, avete turbato la quiete cittadina troppe volte con i vostri duelli, con le vostre stupide risse, adesso basta. Ma le minacce servono a poco, perché l'odio che anima Montecchi e Capuleti è antico, si rinnova ogni generazione, passa di padre in figlio senza perdere di intensità, e magari ormai ci si è dimenticati di perché è cominciata, ma continuano a arrivare nuovi motivi. E insomma, avete capito perfettamente qual è la situazione, e questa è la realtà in cui ogni Capuleti è per un Montecchi un nemico giurato e viceversa. Bene, in questo scenario i Montecchi e Capuleti, Giulietta e Romeo, si innamorano perdutamente. La nostra vicenda ha luogo in un anno che non è ben identificato, siamo alla fine del Cinquecento, e quello che è certo è che siamo alla metà di luglio. Giulietta Capuleti sta per compiere 14 anni. La sua è una famiglia di ricchi commercianti, come i Montecchi, e probabilmente l'inimicizia tra le due famiglie ha delle radici legate proprio a questa professione comune, a qualche rivalità di tipo economico. Insomma, è inconcepibile che un Montecchi possa entrare nella casa di un Capuleti, e ne andrebbe della sua vita. Però accade proprio questo, perché Romeo, che ha 16 anni, si è preso una cottarella per una certa Rosalina. Il cugino Benvolio ha saputo che questa Rosalina, insieme a altre belle ragazze della città, è stata invitata alla festa in maschera che i Capuleti tengono ogni anno alla metà di luglio. Quindi i due ragazzi, Romeo e Benvolio, che sono cugini, sono due Montecchi, sfidano la sorte, fanno la bravata, la ragazzata classica, decidono di entrare a casa Capuleti per fare qualche incontro interessante. Insomma, non c'erano le discoteche, i social, WhatsApp, le chat. Il modo che hanno i ragazzi per conoscersi è quello ai balli, alle feste organizzate nelle case. Vengono accompagnati da Mercuzio, che è un giovane amico di Romeo, parente del principe della Scala. Insomma, i Montecchi varcano la soglia di casa Capuleti, naturalmente hanno i volti coperti dalle maschere, e qui per la prima volta gli occhi di Romeo si posano sul bellissimo volto di una ragazza che in quel momento la maschera non ce l'ha. È la nostra protagonista, è la fresca e deliziosa Giulietta Capuleti. È un incontro destinato a cambiarli per sempre, a travolgere irrimediabilmente le loro esistenze. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. La festa in maschera a casa Capuleti è una festa che è riuscita. C'è un sacco di bella gente, ma c'è anche Romeo Montecchi, nascosto dietro a una maschera che cela il viso e che gli salva la vita. Perché se un Capuleti scoprisse che un Montecchi è entrato a casa Capuleti, appunto, non sopporterebbe quell'affronto, sicuramente lo ucciderebbe. Invece lui passa indisturbato tra gli invitati, butta l'occhio alle bellezze che affollano il salone, è un po' a caccia, diciamo così, spera di vedere la bella Rosalina, ma magari anche qualcun'altra. Stiamo parlando di un ragazzo molto giovane. Poi però succede qualcosa. Voi dovete tener conto che siamo nel 500, l'età media delle persone è 45-50 anni, tutto si fa prima, ci si sposa a 16-18 anni gli uomini e le ragazze ancora prima. Quindi in realtà Giulietta ha 14 anni ma è in età da marito, e Romeo, che ha 16 anni, sarebbe ancora un liceale, magari un po' onanista, sta cercando già la sua sposa. Quando gli occhi cadono sulla bella Capuleti, il gioco è fatto, Romeo si è innamorato. Oh, essa insegna alle torce come splendere. Sembra pendere sul volto della notte, come ricca gemma sul volto di un etiope. Ma è bellezza di valore immenso, che mai nessuno avrà, troppo preziosa per la terra. Come colomba bianca in una lunga fila di cornacchie, sembra la fanciulla fra le sue compagne. La voglio vedere dopo questo ballo. Come sarei felice se la mia mano rude sfiorasse quella sua. Ha amato mai il mio cuore? Negate, occhi. Prima di questa notte non ho mai veduto la bellezza. Romeo rimane folgorato da Giulietta, dalla bellezza, dalla perfezione della sua persona, dall'armonia che emana quella giovane donna. Non sa ancora chi sia, però si è già innamorato perdutamente. Non può lasciarsi scappare l'occasione di parlarle, di conoscerla, di farsi conoscere, e quindi le si avvicina e le parla. Ascoltate come il grande Franco Zeffirelli ricostruisce questo primo incontro tra i due nel suo bellissimo film del 68, Romeo e Giulietta. Se io profano con la mia mano impegna questo santo tesoro, è un peccato gentile, e le mie labbra pentite e trepidanti sono pronte a riparare all'offesa dolcemente. Così tu fai torto alla tua mano, che ha dimostrato solo devozione, perché le mani dei santi si possono certo toccare, ma palma a palma soltanto così. Ma i santi hanno anche labbra, non soltanto mani. Certo che i santi hanno labbra, ma servono solo per pregare. Allora, cara santa, fai che le labbra, come le mani, vedi, pregano, congiunte. Lascia vivere la mia speranza. Mi dispiace, ma è un peccato che non posso commettere. Allora fermati, lo commetterò io soltanto. E tu monderai il mio peccato con le tue labbra, benedette, immacolate. Eh sì, Romeo ci sa fare, è abile, e poi davanti ha una Giulietta che ha anche lei il classico colpo di fulmine. Insomma, i due ragazzi sono perdutamente innamorati l'uno dell'altro. L'amore rende audaci e Romeo compie un atto pericolosissimo. Non lascia casa dei Capuleti, ma si nasconde nel giardino perché vuole rivedere la sua Giulietta da solo. Attende l'arrivo della notte nascosto tra le piante e vuole vederla affacciarsi al balcone. Quando si è ragazzi si fanno cose di questo genere. Quale luce apre l'ombra da quel balcone? Ecco l'Oriente e Giulietta è il sole. Oh, è la mia donna, è il mio amore. Ma lei non lo sa. Due tra le stelle più lucenti che ora girano in altre zone pregano i suoi occhi di splendere fino al loro ritorno. E se i suoi occhi fossero nel cielo veramente e le stelle nel suo viso, lo splendore del suo volto farebbe pallide le stelle, come la luce del giorno la fiamma di una torcia. Guarda come posa la guancia sulla mano. Se fossi un guanto su quella mano per sfiorarle la guancia. Ma anche Giulietta non riesce a prendere sonno, perché il bellissimo giovane che ha conosciuto al ballo e che l'ha baciata con tanto trasporto le ha rubato il cuore. Lei ha capito che amerà solo lui per tutta la vita, ma a questo punto sa anche che quel giovane si chiama Montecchi, il peggior nemico della sua famiglia. Eh sì, perché gliel'ha detto la sua nutrice. Romeo è l'erede della famiglia che più di ogni altra cosa è odiata dal padre di Giulietta, e che ha capito che a dividerla dalla felicità sarà proprio quel nome. Oh Romeo, ma perché sei Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. O se non vuoi, basta che giuri d'amarmi e io non sarò più una Capulini, perché è soltanto il tuo nome che mi è nemico. Ma tu saresti quello che sei anche se non fossi un Montecchi. E poi, che cosa vuol dire Montecchi? Non è una mano, né un piede, né un braccio, né un viso, né nessuna altra parte del corpo di un uomo. Oh, prendi un altro nome. Che cosa c'è in un nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, con un altro nome profumerebbe lo stesso. Così anche Romeo, se non si chiamasse Romeo, sarebbe sempre la creatura perfetta che è senza quel nome. Oh, Romeo, cambia nome. E per quel nome che è solo una piccola parte di te, avrai tutta me stessa. Cambia nome, e per quel nome che è solo una piccola parte di te, avrai tutta me stessa, dice Giulietta a Romeo. Questa è una dichiarazione molto forte da parte della ragazza, perché non è solo una dichiarazione d'amore, è molto di più, è una dichiarazione di indipendenza, è una dimostrazione di quanto lei sia libera di pensiero, una donna del Medioevo che in qualche modo sta già guardando al futuro della donna stessa. Lei è stata cresciuta, educata all'obbedienza, passando dal potere paterno a quello del marito. Questa era la strada che era stata scritta per lei, e invece lei fa un salto culturale, perché si trasporta fino alle ragazze oggi che magari rinnegano una faida familiare, che rifiutano di asservirsi al pensiero vigente. Insomma, lei considera il fatto che potrebbe non essere vero che tutti i Montecchi sono dei delinquenti. Lei è cresciuta pensando questo e le hanno fatto credere che tutti i Montecchi erano cattivi a priori. No, lei si è innamorata di uno di loro, l'erede maschio unico dei Montecchi, il più Montecchi di tutti. Qua si capisce perché Giulietta Capuleti e la sua vicenda assume un valore universale che va oltre i confini del tempo e dello spazio ed entra con forza nella storia dell'umanità. È il simbolo di una ribellione forte, forte come l'amore che sta legando per sempre due ragazzi. E da questo momento però le forze del male saranno preponderanti, l'evoluzione della vicenda diventa intricata, e stiamo parlando non solo di un appassionante romanzo d'amore, ma anche di un giallo tinto dalle tinte forti della passione. Ma poi ci sarà anche il delitto e l'epilogo finale, che purtroppo ha il volto della tragedia. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Giulietta, l'unica erede della famiglia ricca dei Capuleti, dei commercianti che vivono floridamente a Verona verso la fine del Cinquecento. Questa bellissima ragazza, non ancora quattordicenne, poco più che una bambina, ma già donna quasi per i tempi che sta vivendo, vive appunto la più intensa e travolgente storia d'amore di tutti i tempi. È protagonista di una passione impossibile, sì, perché lei ama ed è riamata da Romeo Montecchi, che è l'unico erede della famiglia rivale dei Capuleti, rivali da generazioni. La vicenda dei due ragazzi entrerà nell'immaginario romantico, diventerà l'archetipo dell'amore perfetto, avversato dalla società per motivi abbietti del tutto futili, e quindi è una storia che diventa dolorosa fino allo straziante epilogo. I due si sono conosciuti a un ballo in maschera, si sono scambiati un bacio appassionato e nell'oscurità del giardino di Villa Capuleti si sono promessi amore eterno. Hanno deciso di sposarsi. È una scelta rivoluzionaria, una scelta che sfida la storia delle rispettive famiglie che sono coinvolte da decenni in una faida. Capuleti e Montecchi sono nemici giurati, si odiano. Loro, i due ragazzi, sanno bene che il loro amore sarebbe impedito dai genitori. L'unica soluzione possibile è un matrimonio segreto che metta tutti di fronte al fatto compiuto. E per mettere in pratica questo disegno, Romeo va da frate Lorenzo, che è il suo padre spirituale, un uomo di chiesa, ma è un uomo avanti per la sua epoca, è uno studioso, uno scienziato, un esperto di erbe e pozioni con le quali cura gli ammalati, è un illuminato. E questo frate vede addirittura di buon occhio questo matrimonio, ha capito che è un matrimonio che potrebbe mettere la parola fine all'odio delle due famiglie, quindi accetta l'atto rivoluzionario di sposare in segreto i due innamorati. La bella notizia arriva a Giulietta dalla sua nutrice, è una donna che ama questa ragazza come una figlia, che diventa complice di questo amore contrastato. Hai avuto il permesso di andarti a confessare da frate Lorenzo, no? Bene, allora vai, presto! Là c'è un marito che ti aspetta, che vuole farti sua sposa. Ecco che il sangue ardente ti sale alle guance, che diventano scarlatte a questa novità. Corri alla chiesa! Intanto io andrò a cercare una scala, con la quale il tuo amore, appena farà buio, salirà come al nido di un uccello. Sono come un facchino che lavora sodo per la tua felicità. Il matrimonio segreto tra Romeo e Giulietta è celebrato senza intoppi. Dopo però gli sposi devono separarsi, perché Giulietta si è allontanata da casa con la scusa della confessione, non può tardare troppo, non deve destare sospetti nella madre, e corre indietro, va a casa dove aspetterà che faccia buio e che Romeo, protetto dalla notte, possa salire fino alla sua camera con la scala per consumare la prima notte di nozze. E naturalmente è un evento che i due ragazzi stanno aspettando con trepidazione. Stendi la tua cortina nera, o notte che proteggi l'amore. Gli occhi della luce che fugge chiuderanno le palpebre e Romeo avverrà nelle mie braccia, in segreto e difeso dal silenzio. Agli amanti basta la loro bellezza come luce nei convegni d'amore. E se l'amore è cieco, è in armonia con la notte. Vieni, gentile signora, dalla semplice veste nera e insegnami a perdere una gara che sto per vincere, dove si giocano due verginità intatte. Copri col tuo nero manto il sangue acceso che batte sul mio viso e fai l'amore timido più audace. Vieni, dolcissima notte, amorosa notte, e dammi il mio Romeo. Scioglilo in piccole stelle. Il volto del cielo sarà così splendente che tutti ameranno te, o notte, dimenticando di adorare il sole. Giulietta è una donna innamorata, le sue parole hanno la bellezza dell'amore, la profondità di questo sentimento, però non sa che mentre lei sta invocando la notte, la sta attendendo con impazienza, dall'altra parte della città si sta compiendo qualcosa di terribile che sconvolgerà i suoi piani e anche la sua stessa vita. Tebaldo Capuleti, cugino di Giulietta, un uomo dal temperamento focoso, incontra Romeo, che invece sta pacificamente cullandosi nel suo sogno d'amore. Tebaldo naturalmente non sa nulla del matrimonio, non sa di trovarsi di fronte ormai a un parente, e per lui è solo un Montecchi che gli sta davanti, quindi sfida Romeo a duello. Romeo si rifiuta di combattere contro di lui e fa anche un po' la figura del codardo, perché quelli erano anni in cui se uno ti sfidava a duello dovevi combattere se avevi gli attributi, e se poi un nemico giurato non c'era motivo per rifiutare. ritirarsi. Così Mercuzio, che è amico di Romeo, che è lì con lui, accetta la sfida al suo posto. Tebaldo lo uccide. A quel punto Romeo non può più tirarsi indietro, deve vendicare l'amico, a sua volta ferisce a morte Tebaldo. È una scena raccapricciante perché ci sono due ragazzi trafitti a morte, è un evento grave che attira una folla di gente, ma anche il principe della Scala, perché Mercuzio era suo nipote. E poi i Capuleti e i Montecchi si sono battuti ancora una volta, quindi hanno disobbedito al suo ordine di cessare qualsiasi ostilità tra le famiglie. Romeo ha ucciso Tebaldo, ma Tebaldo aveva ucciso Mercuzio. Chi pagherà ora questo sangue prezioso? Romeo era amico di Mercuzio e la sua colpa coincide col diritto della legge che condanna Tebaldo. Per questo arbitrio, nei confronti della legge, lo condanno immediatamente all'esilio. Il vostro odio ha colpito anche me. A causa dei vostri violenti dissidi è stato versato sangue mio. Non ascolterò né difese, né scuse, né pianti, né preghiere. Dunque, Romeo, s'allontani subito. Se venisse trovato ancora qui, dopo il bando, sarebbe messo a morte. Rispettate i miei ordini. La clemenza è un delitto quando perdona un assassino. Questa segnatevela, eh? La clemenza è un delitto quando perdona un assassino. Fate l'uso che volete di questa frase. Comunque, il principe non ha alternative. Romeo ha vendicato l'assassino di suo nipote, ma gli ordini del principe erano stati precisi. Duelli e uccisioni sarebbero stati puniti con la morte. Tutto quello che può fare è salvare la vita di Romeo esiliandolo per sempre da Verona. E il ragazzo trova rifugio ancora dall'amico frate Lorenzo, che cerca di calmare la sua disperazione, ma non è in grado di farlo. Tu, frate, non puoi parlare di ciò che non provi. Se tu fossi giovane come me e Giulietta fosse il tuo amore, se tu fossi sposato solo da un'ora e avessi ucciso Tebaldo, se tu fossi innamorato follemente come me e bandito come me, allora potresti parlare, allora potresti strapparti i capelli e buttarti a terra, come faccio io ora per prendere la misura di una fossa non ancora aperta. Eh sì, Romeo è giovane, non conosce le mezze misure, è disperato, cerca la morte perché non vuole vivere lontano dalla sua Giulietta. Poi frate Lorenzo finalmente riesce a calmarlo, lo manderà a Mantova per un periodo fino a quando le acque non si saranno calmate, e poi si chiederà perdono al principe. Nel frattempo però, così come era stato stabilito, che Romeo vada dalla sua sposa per una notte. Il dramma di Giulietta e Romeo almeno in parte è stato arginato. I due ragazzi hanno potuto passare la notte assieme. Poi all'alba Romeo, disperato, è fuggito per Mantova lasciando Giulietta in lacrime. Le prospettive però sembrerebbero buone, perché i due potrebbero riunirsi molto presto, o a Mantova facendo fuggire Giulietta, o a Verona nel caso in cui il principe dovesse valutare positivamente una supplica postuma all'esilio che aveva inferto a Romeo. Purtroppo però c'è un fatto nuovo che complica ulteriormente gli eventi. Il padre di Giulietta ha deciso di darla in sposa a Paride, un giovane nobile parente del principe, e Giulietta è disperata, prova a rifiutarsi, ma stiamo parlando di un'epoca nella quale era impossibile per una ragazza opporsi al volere paterno. Così lei, con la scusa di un'altra confessione, si rifugia da frate Lorenzo, che le propone qualcosa di molto pericoloso. Domani notte, quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene, e il polso arresterà il suo battito. Non ci sarà più calore in te, né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno, come quando la morte scende sul giorno della vita. Resterai in questo stato per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Eh sì, frate Lorenzo è un esperto di erbe, di pozioni mediche, e propone a Giulietta di fingersi morta per sfuggire alle nozze con Paride. Lui avvertirà Romeo che nella notte scenderà nella cripta dei Capuleti e una volta che lei si sarà risvegliata dal sonno di questa morte apparente potrà fuggire con lui. Sembra un piano perfetto, ma la sfortuna, forse l'avventatezza dei due ragazzi faranno fare a questo piano una fine diversa. E per gli sposi è in arrivo un finale molto più drammatico. E sì, perché Romeo, per un destino tragico, non riceve la lettera nella quale frate Lorenzo lo informa di quello che è stato fatto. Così, quando Baldassare, che è un servitore di casa Montecchi, ignaro di tutti questi retroscena, va a Mantova per raccontargli l'accaduto, Romeo, disperato, crede che Giulietta sia morta veramente, compra del veleno, torna a Verona, scende nella cripta dove trova il corpo freddo della sua sposa. Perché sei ancora tanto bella? Dovrò credere che anche la morte sia capace di amare. E che quell'orrido mostro scheletrito ti conservi così bella per sé. Per difenderti da lui, io resterò qui con te e non ripartirò più. Mai più da questo palazzo. Di eterna notte e di paura. Occhi, ditele addio. Braccia. Questo è l'ultimo abbraccio. E labbra, voi porte della vita, suggellate il patto eterno con la morte aborrita, divoratrice di tutto. Romeo si suicida con un potentissimo veleno e pronuncia la famosa frase: con un bacio io muoio. Se avesse aspettato solo pochi minuti, Giulietta si sarebbe risvegliata da quello stato di morte apparente. E così lei si sveglia, riapre gli occhi e vede Romeo morto, capisce quello che è successo e si suicida a sua volta, trafiggendosi col pugnale del suo sposo. E le famiglie dei Montecchi e dei Capuleti, avvertite del duplice suicidio, accorrono insieme alla tomba e solo allora, davanti al sangue dei loro figli, si riconciliano. È una riconciliazione tardiva, vengono accompagnate dal principe che maledice il loro odio che è stato causa di tutto quel male. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore nasconde la sua faccia. Andiamo, parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di quella di Giulietta e del suo Romeo. Una storia che ha in sé il suo tragico e meraviglioso colpo d'ala, destinati a rappresentare tutti gli innamorati nei secoli che sono arrivati dopo questo terribile epilogo. Il colpo d'ala supremo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, ai miei social, ai nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simone Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.